dei 3000 piedi, vediamo che l'andatura è subito molto molto veloce e vediamo che va a prendere la testa, la testa, la testa, la testa, la testa. Vediamo cadere, vediamo cadere, vediamo cadere. Ma si è rimesso in gara? No, no, è ancora là. È ancora a terra. Ma si è rimesso in gara? No, no, è ancora là. È ancora a terra. Vediamo la disperazione, disperazione, disperazione, disperazione. Più agili nel superamento delle siepi, delle barriere, i due inseguitori. Inseguitori, inseguitori. Questa vittoria sorprendente. Ed ora vediamo la gioia incontenibile. Incontenibile. Eccoci qua, è di nuovo domenica e quindi siamo di nuovo qua in ritardo come sempre, questa volta solo di mezz'ora, miglioriamo un sacco, l'altra volta è iniziato in ritardo di un'ora ed ero anche da solo, ero in versione 1500 siepi, ora questa volta siccome l'altra volta ho fatto schifo mi hanno detto, sono venuti in tantissimi perché da solo hanno detto che non mi lasciano più, ecco. E questa volta siamo in versione 7500 siepi, cioè la stanza è piena, è gremita. C'è un motivo, in realtà non sono tutti qua solo a fare i miei badanti, anche se ne avrei bisogno effettivamente, ma sono qua perché abbiamo due ospiti del tango sognato, che ora vi spiegheremo che cos'è, però la prendiamo molto più, molto, molto, molto più alla lontana, e la prima cosa che vorremmo ci spiegassero, dal momento che in realtà noi non abbiamo mai parlato di tango, in realtà non abbiamo mai parlato di danza, ma da oggi abbiamo deciso che 3000 siepi si estende all'espressione corporea in generale e in particolare lo facciamo parlando appunto di tango, e gli vorremmo chiedere un pochino la storia del tango. E prego. Sì, grazie, grazie Gino, buonasera a tutti. Io sono Marco di Tango Sognato. Allora, sì, dunque, la storia del tango è una storia abbastanza antica, perché ha quasi 150 anni. È nato e si è sviluppato, diciamo, dai due lati del Mar della Plata, quindi fra Buenos Aires e Montevideo. Quindi si dice tango argentino, ma potremmo nello stesso modo parlare di tango uruguaiano in realtà. Tanto è vero che la candidatura del tango come all'UNESCO come patrimonio dell'umanità è stata presentata e poi è stata accettata nel 2009 dall'UNESCO da Argentina e Uruguay congiuntamente. E quindi diciamo il luogo in cui è nato è senz'altro le rive del Mar della Plata, quindi Buenos Aires e Montevideo. La data diciamo di nascita del tango, la data convenzionale è 1880, però trattandosi chiaramente di un processo è una data indicativa, non indica ovviamente la nascita esatta del tango, che è appunto un processo che nasce quindi nell'Argentina e nell'Uruguay del XIX secolo, e è interessante volevo dire che nasce dall'incontro fra popoli diversi, fra culture molto diverse fra di loro, in un'epoca in cui, per esempio, l'Argentina era molto accogliente, la sua legislazione addirittura favoriva l'immigrazione, perché avevano bisogno di forza lavoro che lavorasse le enormi terre dell'Argentina e che arricchisse il paese, come effettivamente poi è avvenuto. Ma è stato anche un arricchimento culturale, perché grazie all'incontro fra popoli diversi, naturalmente anche moltissimi europei e in particolare moltissimi italiani, molti grandi autori d'orchestra del tango sono di origine italiana, come è noto, hanno dato vita appunto a questo fenomeno culturale, a questo ballo, che oggi si è diffuso in tutto il mondo e quindi appunto è diventato a tutti gli effetti un patrimonio dell'umanità. Quindi voi avete iniziato a interessarvi del tango, per quale motivo? Cioè, Allora, affascinati da questo, come nasce l'interesse per il tango? no, veramente questo l'abbiamo scoperto molto dopo. L'interesse per il tango, come credo alla maggior parte dei ballerini, è nato, almeno per me, ma credo anche per Beatrice, ora lo dirà lei, in modo assolutamente casuale. Cioè, una mia amica mi chiese se l'accompagnavo a lezione di tango perché le mancava il cavaliere. Quindi non c'è stato un Onesto. interesse culturale all'origine, diciamo. Questo è sorto dopo, è sorto con la conoscenza del tango. Quindi cioè ti sei innamorato da quella volta lì? Sì, senz'altro. Ah, Colpo di forte. fulmine. Bello. E vogliamo far sentire un pezzo di quelli che abbiamo selezionato qua. Io non so quale preferite di questi due che avete scritto qua davanti, poi li devi leggere pure te, perché io ho deciso che non leggo più niente che non sia italiano, perché non mi Ok. riesce. Bésame, mi amor. Ecco, io non l'ho messo. Provo un Ecco, altro. bene. Allora, Uno di l'altro questi due numero. scritti grossi. Allora, quei scritti grossi, il primo, Luna e Gena di Rodriguez. Luna Gena, Gena, di vai. Rodriguez. E allora via. Finisce in maniera secca come finiscono tanti pezzi di tango. Questo pezzetto che abbiamo sentito a metà, al primo pezzo durante il primo pezzo di questa intervista a Tango Sognato, avevamo detto che Marco, che è qua di fianco a noi, folgorato sulla via di Damasco da una sua amica che gli aveva chiesto di fargli da partner per una lezione di tango, inizia a ballare il tango. E allora a questo punto raccontaci come si arriva dal tango in generale, dalla tua folgorazione al progetto Tango Sognato. Sì, bene. Allora, dunque, la faccio breve, non racconto tutte le varie vicissitudini del mio apprendimento del tango. Però ecco, posso dire che da allora effettivamente era il 1999, la passione per il tango non mi ha mai abbandonato e dopo varie traversie, dopo aver conosciuto Beatrice, siamo stati invitati dalla nostra amica Vanessa a cominciare qui al Next Emerson un progetto di tango, delle lezioni di tango. Era il 2008, la fine del 2008. Per la precisione, il 15 dicembre 2008 c'è stata la prima lezione. Infatti abbiamo giusto ieri sera festeggiato con gli altri compagni e le compagne di Tango Sognato appunto la nascita di Tango Sognato, l'ottavo compleanno. Ma era veramente questa la data? Era Il il 15. 15-12 2008, la prima Cavolo, e ve lo lezione. ricordate davvero? Sì, Che bravi. esattamente, sì. E in questi 8 anni, dunque, Tango Sognato è nato appunto con un progetto ancora così un po' abbozzato, per vedere un pochino se c'era un riscontro, se c'era una risposta, insomma. E inizialmente eravamo pochini, e le prime lezioni sono state tenute nel bistrò, davanti al bar di Next È Emerson. una stanzetta piccola, ci Sì. stavate in 10, mi Sì, ricordo. esatto, sì, esattamente. Però già dal secondo anno ci siamo spostati nella sala più grande dove c'è lo skate park. E lì abbiamo realizzato subito una prima pedana, perché altrimenti il pavimento non era adatto, che poi è stata rinnovata più volte. La versione attuale della pista in parquet è la quarta versione. Sì. E il gruppo è cresciuto nel corso degli anni. Sono passate da Tango Sognato, devo dire, centinaia e centinaia di persone. È stata un'esperienza veramente molto, molto bella. Molto bella, è stata una crescita sia di noi, naturalmente, di me e di Beatrice come insegnanti, ma anche di tutto il gruppo, di tutto il collettivo, che si è, secondo me, sempre di più caratterizzato proprio come un collettivo. Diciamo, si è sviluppato proprio il piacere di organizzare, di fare le cose insieme, quindi abbiamo realizzato appunto un bar, un sistema per portare l'acqua dove prima c'era e quando ci siamo arrivati noi non c'era più, un sistema elettrico, I bagni. abbiamo sì realizzato i bagni, fatto piccoli lavori edili, per così dire. L'ultimo lavoro importante è stato l'acquisto del gazebo, che ci ha consentito di fare tutto un sistema di allestimento di luci, di cablaggio per l'audio e soprattutto nei mesi invernali di stare al caldo, al calduccio. C'avete anche la ludoteca. Abbiamo realizzato anche una ludoteca, esattamente, che è connessa alla sala del tango, è in diretta comunicazione con il tango per i bambini, che molti degli allievi delle allieve hanno e che a volte portano. Lo so, ve lo invidiamo tutti. Cioè, io c'ho Ecco. proprio questa, avete fatto centro sociale parallelo pulito, che io avrei sempre voluto. Dove la gente c'ha i tacchi. sì, Io, sì. se devo dire la verità, nel mio approccio da frequentatore dell'Emerson, la prima volta che ho sentito i tacchi non capivo che cos'era. Cioè, io non ero abituato a sentire tac tac tac tac dentro l'Emerson. E poi, guidato da questo rumore di tacchi, ho trovato il centro sociale parallelo, quello be bello, e sono rimasto folgorato. E infatti, anche con noi poveri smandruppati con cui vado a ballare la breakdance, e noi scappiamo sempre da voi in realtà. Cioè, quando possiamo, come dei topi, ci infiliamo. È così. Ma sentiamo un altro pezzo e poi ci raccontate per bene in cosa, diciamo, cosa contraddistingue il vostro stile di tango, perché ci sono tanti stili di tango, il vostro è uno particolare che ha delle caratteristiche molto interessanti. Cosa vogliamo sentire? Oh, allora a questo punto è il turno di Besame Mi Amor di Francisco Canaro. Thank you. siamo triste, más triste che nunca, y nos cuesta tanto decirnos adiós. Nuestras ilusiones se han quedado trunca, no tiene remedio, lo ha querido Dios. No, no llores mi alma, que ya falta poco, déjame mirarte por última vez. Yo también de pena estoy casi loco, mas te juro mi alma que retornaré. Bésame mi amor, fuerte por favor, para retenerte en el recuerdo. Yo sé que pronto de sentir un gran vacío, como si alguien me ha quitado lo que es mío. Bésame mi amor, por última vez, puesto el corazón en este beso, para guardarlo aquí en mi pecho tiernamente y evocarlo dulcemente cuando ya no estés. Bésame mi amor, por última vez, puesto el corazón en este beso, para guardarlo aquí en mi pecho tiernamente y evocarlo dulcemente cuando ya no estés. Voilà, struggente canzone d'amore per questa domenica in compagnia di 3.000 siepi nella versione tantissimi 7.005. E continuiamo a parlare di tango sognato, questa volta spiegata come era nata l'esperienza anche da un punto di vista tecnico-logistico, che a noi interessa sempre come amanti dell'auto-organizzazione spicciola. E ora invece parliamo delle caratteristiche filosofiche, perché volevamo darci un tono più serio. E quindi niente, se ci spieghi un po' qual è il vostro stile di tango e cosa si caratterizza, come si sviluppa, come lo sviluppate voi, potrebbe essere tanto bello. Sì, molto volentieri. Allora, molto bello cominciare con le caratteristiche filosofiche, mi piace. Allora, il nostro tango possiamo dire che mette insieme l'abbraccio chiuso, che è ciò che caratterizza un tango più tradizionale, più milonghero, come lo definiscono alcuni, con degli elementi moderni, di modernità. Quindi è uno stile piuttosto appunto moderno, da un lato, però che richiama anche questa tradizione dell'abbraccio chiuso. E si basa essenzialmente sulla comunicazione fra i partner del ballo. Quindi noi privilegiamo appunto questa vicinanza, questo abbraccio più intimo, questa comunicazione che a volte può essere anche minimale, piuttosto che non un tango più spettacolare, più volto all'esibizione, per non dire all'esibizionismo, perché c'è un po' questo frainteso, no? Cioè molti credono che il tango sia fare vedere qualcosa di accattivante, di spettacolare, o di sensuale, no? O addirittura di erotico, secondo alcuni. È un grosso fraintendimento che nasce dal fatto che il tango, dopo un periodo di letargo, ora la faccio breve, diciamo fra gli anni 50 e gli anni 70-80, appunto negli 80 del secolo scorso, è rinato grazie ai grandi spettacoli, alle grandi compagnie, tango show o tango escenario, che però è cosa ben diversa dal tango de salon o tango milonghero, che è quello che si balla nelle sale da ballo, dove ciò che conta è il rapporto dei partner tra di loro e con tutti gli altri componenti della ronda, cioè tutte le persone che sono in pista in quel momento. E quindi noi appunto cerchiamo di caratterizzare il nostro modo di ballare come tango sociale. Per noi questo è molto, molto, molto importante. Cioè essere ben connessi non solo con se stessi, con il partner e con la musica, ma anche con il contesto sociale e in particolare con le altre persone che sono in pista in quel momento. Ma è una cosa che avete ricercato o vi è cascata addosso? Allora, cioè, tu hai provato anche altri stili? Sì, abbiamo provato anche un altro modo di ballare, che però diciamo così non ci convinceva troppo, ma che comunque da cui abbiamo, credo, tratto qualcosa di bello e di utile, come sempre accade nel tango. Questo aspetto sociale del tango, diciamo, io direi entrambe le cose, un po' ci è cascato addosso, cioè un po' abbiamo trovato effettivamente maestri che ci hanno instradato un pochino su questa, in questa prospettiva del tango sociale, del tango milonghero prima, o comunque lo si voglia chiamare. Faccio una breve parentesi, io sono contrario alle etichette, perché di ogni definizione si può dimostrare esattamente il contrario, di ogni definizione di stile di tango, di modo di ballare il tango, quindi cerco di non usare mai le etichette. Però appunto dicevo, da un lato ci è cascata addosso, dall'altro l'abbiamo anche cercato noi, perché chiaramente per noi l'aspetto sociale del tango è fondamentale. E talvolta, non so, si può vedere, diciamo, il funzionamento di una ronda, io a volte penso questo, un po' anche come una metafora della società, no? Quindi il rispetto che ci deve essere sempre fra coppia e coppia, oltre che fra i due partner della stessa coppia, può essere anche un po' così, un po' una metafora appunto del rispetto, della collaborazione che c'è fra i componenti di una società o comunque di una comunità sociale. Ah, bellissimo. Sentiamo un altro pezzo? Sì, Sì. volentieri. Cosa sentiamo di questi due? Oh, io direi non la comparsita, ma direi Quell'altro, l'altro. però leggi te. Sì, allora, va a cantar un Ruiseñor di Francisco Canaro, sempre. Cantare un ruiseñor, amargo por la traición de un gran amor, pero invito a los presentes que se sirvan la aguardiente, que esta vuelta que llegó la pago yo. Yo también tuve ilusión por un querer, y después se marchito por desamor, y esta noche de verbena en la paloma, hagan rueda, va a cantar un ruiseñor. Amor de mi juventud, y amargo fue tu destino, si nunca logré, muchacho, encontrarla en mi camino. Pero olvidaré mejor la pena del desencanto y embriagarse con el canto. Y un seguro servidor, hagan rueda, va a cantar un ruiseñor. Magari come ultima domanda prima dell'ultimo pezzo, una chiosa logistica prima della chiosa musicale, cioè se uno volesse partecipare al vostro corso che si tiene al Next Emerson nella parte, quella tanghera del centro sociale, è bellissimo, come fa? Allora, dunque, molto semplice. Le lezioni si tengono attualmente il lunedì e il mercoledì e sono gruppi già definiti di persone quindi già iscritte. Per iscriversi si può guardare direttamente sul sito The Next Emerson, nella tendina Tango, e lì c'è l'indirizzo mail di Beatrice. Lei si occupa delle iscrizioni e dell'organizzazione in generale, anche dei gruppi. Il prossimo gruppo principianti possiamo dire che comincerà molto probabilmente a gennaio, gennaio-febbraio, insomma inizio anno. Quindi questo è il momento giusto, proprio il momento adatto per nuove iscrizioni. Vedi, siamo capitati precisi. Non Sì, l'abbiamo sì. mica fatta apposta, è che c'è questo olismo che gira nell'aria. Le cose capitano quando devono capitare, non si sa perché. È vero, forse sì, è proprio così, proprio giusto. E quindi chiudiamo con il pezzo di rito. Spiega perché chiudiamo con questo Sì, pezzo. appunto dicevo di non metterlo subito perché solitamente questo è il pezzo con cui si chiudono Io le milonghe. ci ho provato in maniera sistematica ogni volta a fargli mettere questo E ho pezzo. dovuto fermarti appunto perché è importante che questo venga suonato come ultimo brano della nostra conversazione e quindi abbiamo la versione di Sarli de La Comparsita. Finita la comparsita, ringraziamo tanto il Tango Sognato che è stato qui con noi oggi, speriamo torni presto. Se volete fare un saluto da dietro forte, si sente. Ciao, grazie. E adesso ripassiamo la palla alla Gina in versione antinatalizia, anticlericale, antitutto, che ci terrà compagnia con dei simpatici aneddoti su... Ora ce lo spiega, comunque si parla di storia della Chiesa. Storia della Come Chiesa. la sappiamo fare solo noi. Io non sono antinatalizia in realtà, però Anzi, sono una grande stimatrice del Natale. Del Natale, eh sì. Ma del Natale in quanto festa pagana o del Natale proprio quello con Babbo Natale? No, Babbo cioè quello Natale, un po' consumista, no. Un po' nordico? No, no. Ti rifacciamo la Natale cattolico? Natale cioè Natale festeggiamo cattolico. Gesù bambino? Sì, festeggiamolo, festeggiamolo. Cioè facciamo la puntata anticlericale però salviamo Gesù bambino? Perché? Vero perché è un bambino? Va bene. No, vabbè, allora cominciamo subito facendo gli auguri al mitico Papa Francesco che gli ha fatto ben 80 anni, nasce quindi il 17 dicembre del 36 e in questa puntata oggi dedicata allo sport e al Vaticano, attraverso, ne parliamo attraverso un'intervista di Fabrizio Felice, classe 1950, insegnante di lettere non so bene dove, comunque ha rilasciato questa intervista nel 2013. Ma è amico tuo? Cioè, non perché... è amico mio. Ah, okay. No, era per sapere, chi è costui? Ha rilasciato, è un insegnante di lettere, ha rilasciato questa intervista nel 2013 al Manifesto ed è autore del libro Alle origini del movimento sportivo cattolico, Sedizioni, costa 13,50 euro, noi quando lo leggeremo poi magari ve ne parleremo, ora l'intervista è comunque un riassunto di quello che si può trovare all'interno del libro. E... ma dici anche il prezzo perché lo vorresti regalato per Natale? Cioè tutta questa chiosa che non sono contro il Natale, dico il prezzo del libro perché vuoi che qualcuno te lo regali? Cioè mi stai dicendo che ti devo regalare il libro per Natale? Ho troppo mal di testa per contrabbandare oggi, mettiamo Johnny Cash. Va bene, allora Johnny Cash, se parte, perché questo è i pezzi sono quelli che non partono mai. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. Ed eccoci di nuovo negli studi di Radio Wombat a parlare di sport e Vaticano, e cominciamo la nostra storia. Allora, le origini dello sport cattolico sono rintracciabili verso la metà dell'Ottocento, e i promotori si ritrovano tra i salesiani e i gesuiti. Però sono cose diverse. I salesiani e i gesuiti assieme? No, non assieme. Cioè, all'interno del mondo cattolico, separatamente, sì, salesiani e gesuiti promuovevano lo sport. Quindi Don Bosco, perché l'ordine dei salesiani nasce all'incirca a metà dell'Ottocento, io lo so bene. Quindi Don Bosco, che fu anche un grandissimo pedagogo, maledetto, non so, sono andato a scuola da lui e quindi posso insultarlo quanto mi pare e piace, e nella metà dell'Ottocento fonda l'ordine, circa, forse un po' prima, fonda l'ordine dei salesiani per pascolare tutti questi bambocci che stavano risparpagliati nella Torino che si andava industrializzando. I gesuiti invece, perché nelle loro macchinazioni machiavelliche, capito, da grande ordine gestore del... hanno capito la potenzialità dello sport e detto qua tocca intrupparli da piccoli facendoli giocare, così poi ce li portiamo avanti. Maledetti. No, esatto. Continua. Comunque nel 1894 vengono fondate le prime società sportive cattoliche, e come Gino ha accennato, in particolare nei centri a maggior sviluppo industriale, e quindi vengono menzionati Milano, Genova, in seguito comunque anche Torino sicuramente. E lo sport viene promosso dagli oratori come un'esca, e tant'è che il cardinale Ferrari di Milano li chiamava dei vincoli strumentali, poiché giammai i giovani dovevano cedere al mondo laico. È comunque un mondo che non ha molta progettualità, manca la progettualità, e nel 1905 nascono numerosi centri sportivi che non hanno proprio un inquadramento loro, o comunque non c'è una linea dettata dal mondo della Chiesa valida per tutte queste associazioni cattoliche che nascono. Il 1905 rappresenta una data di svolta, poiché appunto la Chiesa dice mo basta, dobbiamo riprendere il controllo, viene quindi promosso in Vaticano il primo concorso per le società ginniche cattoliche, di modo da poter riprendere il controllo sulle società sportive. Ma hanno fatto le gare? Concorso, nel senso, come tipo bando per candidarsi a essere una società sportiva? Senti, non devi fare l'intervista a me. No, era per capire le cose che... Hanno fatto un concorso. Dove sfilavano. Sì, vabbè. Ma perché le società sportive nate promuovevano la lettura del Vaticano in modo insomma pericoloso, un'idea di cristianesimo di concorrenza. E cos'era questo cristianesimo di concorrenza? Era un abbandono di quello che era la figura del giovane cattolico timoroso, coniglio e un po' sfigatone, sostituito da un giovane cattolico invece muscoloso, coraggioso e aperto al mondo. E loro volevano tornare indietro? Eh? Loro volevano tornare indietro? Rivolevano il giovane sfigato? Loro volevano il giovane sfigato perché il giovane cattolico muscoloso era un modello pericoloso che rendeva difficile poi la concezione strumentale dello sport all'interno della Chiesa. Ma pensa! Tant'è che il Vaticano spedisce in Belgio tale padre Semeria, che era l'ideologo dello sport cattolico nuovo. Ah, lo spedisce in Belgio per fare cosa? Per scomparire nel nulla. Ah, in esilio, al confino. Ho capito. E beh, adesso mandiamo un pezzo, e questo è Vorrei che il Vaticano. Vorrei che il Vaticano andasse in fiamme e il Papa ne bruciasse e l'MLM e il Papa ne bruciasse e l'MLM bruciasse preti in corpo alle sumame. Eccoci ancora a parlare di Vaticano Sport. Siamo arrivati quindi al 1905. E il momento in cui il Vaticano dice no vabbè riprendiamo il controllo ed ecco che il Vaticano si organizza e istituisce la FASCI, che è la Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane, e viene posta come sede Roma per controllare meglio le attività. E vi ricordate, in realtà la diffusione maggiore l'avevamo nei centri più industrializzati, quindi erano altre città. E viene posto come capo del FASCI, o della FASCI, federazione della FASCI, il Conte Maria di Carpegna, che era una guardia nobile del Papa e non era in alcun modo legato al mondo delle associazioni sportive cattoliche. E questa imposizione vaticana, sia della città che poi emettere a capo della federazione questo nobile guardia del Papa, insomma, scatta una polemica e si crea un'asse lombardo-ligure che è in contrapposizione a quella che è l'egemonia romana e alla subalternità vaticana. E, beh, adesso mettiamo un altro pezzo. Questa è Tu scendi dalle stelle, nella versione dell'Ammazza Preti, che è una raccolta di canti satirici anticlericali. Tu scendi dalle stelle senza freni, sbatti in una roccia e poi ti svieni. Oh. torniamo al momento in cui appunto si è creata quest'asse Lombardo-Ligure, che è in contrapposizione all'egemonia romana. Succede che la società ginnastica lombarda, che raccoglieva tre quarti del movimento sportivo cattolico, si scioglie in contrapposizione alla Fasci e confluisce in una federazione altra, che è la Federazione Ginnastica Lombarda, che ha un'ispirazione liberale e che non aveva in realtà mai accolto associazioni provenienti dal mondo cattolico. È anche vero che le società più potenti provenienti dalla società ginnastica lombarda, per poter partecipare ai concorsi europei ginnici, aderiscono alla Fasci. E adesso cambiamo momento storico, passiamo alla Prima Guerra Mondiale e nel momento in cui, cioè dopo la Prima Guerra Mondiale, la Fasci è abbastanza forte a Roma, ma non ha una connotazione specifica, manca la linea politica cattolica. E vengono sì affermati i valori del nazionalismo, dello sport premilitare, che erano comunque comuni anche alle società sportive ufficiali. Ne abbiamo già parlato, credo, in puntate precedenti, probabilmente Gino. Io no. Personalmente no, abbiamo parlato dell'antisportismo socialista, che loro non ci volevano avere niente a che fare, perché effettivamente lo ritenevano lo sport come una sovrastruttura borghese, e quindi sì, indirettamente ne abbiamo parlato. Ora lo ribadiamo, comunque. Ribadiamo. Adesso passiamo dalla Fasci ai fasci, quindi siamo in epoca di fascismo, e prima di introdurlo è il momento di un altro pezzo di quelli forti, di canti anarchici anticlericali, e questo è Quando che muore un prete. È finita all'improvviso. E quindi siamo al momento, arriviamo al fascismo. Il fascismo occupa tutti gli spazi, dall'ambito sportivo premilitare allo scoutismo, che secondo me potrebbe essere un argomento di una prossima puntata di Scout. Prossimo anno. Iniziamo bene il prossimo anno parlando male degli Scout, e quindi anche poi del buon Renzi, che si sa veniva dagli Scout, maledetto lui e maledetti anche un po' gli Scout. Anche gli Scout, sì. Te hai mai fatto gli Scout? No, assolutamente no. No, neanch'io. Sì? No. Tanti miei amici sì, ma dice si divertivano. Sì, anche i miei amici lo dicono, però io ho assistito a delle discussioni un po' agghiaccianti, soprattutto per chi ha partecipato agli Scout cattolici. C'hanno questa fortissima gerarchizzazione. Però a me dicevano trombavi un sacco. Quello sì, quello può darsi, non lo so, non me lo ricordo. A te non ti diceva la stessa cosa? Ma è che ho avuto modo di parlare anche con persone che in realtà ci sentivano, ecco, non erano lì perché ce l'avevamo mandato il babbo e la mamma. Ah, non erano lì solo per trombare? No, non erano lì solo per trombare. E io c'avevo gli amici dissoluti, a me solo quello mi raccontavano. Io comunque non ci sono mai andato. Mi ricordo che nascondevano il cibo, c'era un sacco di bullismo, perché c'erano quelli un po' più grassocci e si nascondevano le merendine, quindi poi gli facevano questi processoni pubblici davanti a tutti. Ah. Non erano bei momenti. Non io si vede conoscevano quelli che si calavano le MD e poi festa tutta la notte. È un po' così. Vabbè, no, ma non parliamo degli scout, parliamo degli scout. D'altro. Siamo nel 1926 e viene sciolta la Fasci, che era la federazione quella dei cattolici. E proseguono comunque le attività dell'associazionismo sportivo cattolico in forma ridotta e attraverso la rete degli oratori, e questo si ha fino più o meno al 1931. Lo stesso Togliatti nelle lezioni sul fascismo riconosce che il regime mussoliniano sia riuscito ad interpretare i bisogni emergenti dando uno sbocco attraverso l'istituzione dell'Opera Nazionale Balilla ONB e l'Opera Nazionale Dopolavoro OND. Ma pensa. Perché Fasci era un nome che era già stato preso. I cattolici avevano fondato la Fasci, qua non rimaneva che fare gli ONB o gli OND. Vabbè, sono molto più brutti come acronimi, cioè ci sarebbe stato tutto in realtà, Fasci, fascismo, sarebbe stato bellissimo come... gli è andata male, peccato. Però il Vaticano, non contento, che con le sigle ci andava forte, dopo la liberazione istituisce il Centro Sportivo Italiano, che in sigla viene CSI. Fa ridere? No, vabbè, dai. Comunque arrivano prima degli stati dell'ex Unione Sovietica e prima del gruppo. Ho capito, non avevo collegato. Con il sostegno, quindi dopo la liberazione fondano appunto questo Centro Sportivo Italiano con il sostegno esplicito di Papa Pio XII, che era anche detto il Papa degli sportivi. Ah, benedetto sia lui e tutti gli sportivi. Benedetto Pio. E indica Gino Bartali ai militanti cattolici come un esempio da seguire. Infatti noi ti favamo per? Coppi. Esatto, forza Coppi. Tra il 46 e il 48 lo sport diventa appunto uno strumento di contrapposizione tra due grossi blocchi, che sono il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Oh, che bello. Allora, la DC ha dalla sua Libertas e CSI e il PC risponde alla WISP. Lo scontro è frontale e in vista delle prime elezioni politiche repubblicane del 48 vengono usati moltissimi testimonial sportivi. Nasce il falso mito, viene definito falso mito, quello di Coppi comunista e... Non era comunista? E del Bartali cattolico. E non era così? Andrebbe approfondito, ci sono molti libri su Coppi e su Bartali. Ma dai, ma era come Don Camillo e Peppone, no. Cioè quelle belle... Siamo state vittime del... Dai, l'Italia divisa in due, il PC, la DC, cioè non era così la storia? Probabilmente no. Ah, mi crolla tutto il mio mondo ideale. Vabbè, vai avanti, io mi intristirò, tornerò a guardare l'angolino bianco come l'altro giorno. Ci intristiamo tutti insieme, ascoltando i CSI. Ecco. Che sono il consorzio suonatori indipendenti con Ginevra Di Marco e ti vengo a cercare. Thank you. mistico e sensuale mi imprigiona te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come l'eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare il fumo al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te, il pezzo dei CSI che piacciono a noi. E torniamo alla storia del Vaticano, la relazione tra Vaticano e sport. Facciamo un salto negli anni 50, dove il CSI aderisce a quelli che sono i modelli di sport dominanti dettati un po' da CONI e CUSI, capitanati, cioè il CONI capitanato da Giulio Onesti, che in qualche modo voleva reinserire gli antichi splendori bene, mi sono intortata. Comunque, voleva in qualche modo riproporre l'ente olimpico, che era un po' quella... Voleva tornare all'antica Grecia, a De Coubertin. Voleva tornare a De Coubertin. A De Coubertin, vabbè. Allo sport di cui abbiamo già parlato male due volte fa. Sì, la visione di sport promossa da De Coubertin. Mentre questo siamo negli anni 50, negli anni 60-70 all'interno del CSI si apre un po' una riflessione sullo sport che poteva essere vissuto più come un confronto con il mondo e si accentua quindi una critica a quelli che sono questi modelli dominanti decubertiniani. E che modelli piacevano a loro? A chi? A questi. Cioè a questi qua, non gli piaceva De Coubertin, gli piaceva? No, vabbè, andiamo avanti, ignoriamolo, impariamo a ignorarlo. Mentre rispetto al CSI, più arguta è la WISP, che alle spalle ha delle teorie forti. Abbiamo una scuola di sociologia francese portata avanti da Le Guillem, che scrive di sport e repressione. Abbiamo una scuola tedesca di Francoforte portata avanti da Prokop, e scrive Olimpiadi dello spreco e dell'inganno, e di scuola di Vennet, che scrive Il calcio come ideologia. Cioè, nessuno di noi sa cosa siano questi scritti, li riportiamo perché li abbiamo rintracciati nell'intervista. Però la WISP copia da questi qua. Ci documenteremo, però la WISP ha alle spalle qualcosa, mentre il CSI stanno lì un po' a dire... Tre libri c'ha. Non c'è niente, c'è lì a dire no, ma De Coubertin forse... No, dico anche la WISP, la tre libri c'ha sport alle spalle. Come confronto con il mondo, cosa vuol dire? dici, no? No, volevo dire che la WISP io. C'ha alle spalle comunque tre libri. Che è meglio che niente. È meglio che niente. Comunque sì. Sono tre libri. No, delle scuole di sociologia. Delle scuole. Anche le scuole. Sì, anche le scuole. Ah, quindi la WISP ha studiato un sacco. Andando avanti, i cattolici non studiano. Sì, infatti, perché il CSI cosa fa a quel punto? Punta allo sport come una festa, un incontro che possa sostituire la gara. Però senti, il CSI alle spalle c'ha la Bibbia, che comunque è un testo che c'ha un sacco di anni. C'è una scuola molto più rodata. Sì, sì, e ce l'ha, ci avrà tutto il tomismo, capito? Tutta la tradizione cattolica, non è che non contano proprio su niente, va bene? Cioè, no, è perché cioè, va detto, cioè, bisogna rendere, cioè, pane a pane, vino a vino, cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare, non è che si improvvisano questi. Non si improvvisa niente, no, bruciavano i cespugli. E cade, io vado avanti, perché in realtà mi confonde le idee, un giorno di mal di testa, poi mi perdo, e... Quindi questo incontro festoso che sostituisce la gara fa decadere quella che era l'idea dello sport vissuto in modo strumentale. E il CSI diviene più autonomo rispetto al Vaticano. Siamo negli anni 70, all'interno del Vaticano ci sono anche dei fermenti grosso rinnovamento. Innovativi, sono gli anni detti della teologia della liberazione. Però poi ci sono gli anni 80. Negli anni 80... L'eroina sport, anche in Vaticano. L'eroina in Vaticano. Diciamo, il Papa si faceva. Ritorno all'agonismo e lo sport cattolico torna sotto il controllo vaticano e sono gli anni di Wojtyla, che nel 2000 promuove il giubileo degli sportivi per favorire il dialogo con i giovani. E per salvare i giovani dall'eroina. E oggi il CSI è una grande macchina organizzativa di sport, hanno addirittura un rappresentante nella giunta CONI, che è una, diciamo che come ente ha fatto una mossa politica per tenersi vicino il Vaticano negli anni del governo del centrodestra e del berlusconismo. E l'intervista si conclude rispetto a quelle che sono le prospettive future per lo sport vaticano e Fabrizio Felice ci dice che secondo lui lo sport cattolico è incapace di cogliere le sfide della globalità. Infatti io il Vaticano e le Olimpiadi non l'ho mai visto. Cioè, se c'hanno queste atletiche li tirino fuori, non è che. E non esistono teorici promotori di nuove idee, e quindi non niente, non succederà più niente, non sentiremo mai più parlare di Vaticano e sport, non ne hanno gli atleti, non hanno niente. No, è tutto. E vabbè, quindi abbiamo fatto una puntata su niente, No, sostanzialmente. non abbiamo. E poi, tra l'altro, lui si auspica, e anche qui, che ci sia Che il una Vaticano brucerà convergenza, con i che per presidenti. salvarsi il Vaticano in qualche modo deve convergere, cioè il mondo cattolico deve convergere con la sinistra in una riflessione condivisa. Ah, e fa lo sfondamento a sinistra. Tutti Sì, ma mi sembra assieme un po' appassionatamente. Aggiungi azzardata. un posto a tavola. Aggiungi un posto a Che tavola. bello, mi piace l'acqua quando si arriva all'ecumenismo così, no? Cioè poi alla fine, no, alla fine siamo tutti italiani, si mangia una pasta assieme, dai, ma che ci frega? Gareggiamo Ormai fianco a il passato è fianco. passato, no? Dai, è bello, È bellissimo. E allora, io concludo la storia di Sport e Vaticano. La prossima volta ci riallacciamo, non vi anticipo niente. Io, che sono una grande amante del Natale di Bruce Springsteen, adesso vi saluto mettendovi Merry Christmas Baby di Bruce Springsteen. Già, perché la prossima domenica è Natale. E noi siamo a trasmettere a Natale, secondo te? Io ci sono. Ah, quindi si trasmette a Natale, puntata di Natale, ma Puntata dal di vivo? Natale. Davvero? Ma io ci sono. Anche io ci sono, non Perché c'ho un no, cazzo da noi fare. strani festeggiamo il 20, io festeggio il 24. Io non festeggio mai. Ah, bene, allora ci siamo il Non festeggio 25. Per Natali, chi dovesse compleanni. voler festeggiare con noi, il Potete 25. ascoltare Radio Wombat il 25 a Natale per festeggiare con noi la nascita del bambino Gesù. Addio, questo è Bruce Springsteen. Comunque no, noi festeggiamo il Natale pagano in realtà. Noi bruciamo bambini e facciamo riti la notte di Natale. Qua, in diretta, se volete venire in regia, ci sono bambini arrosto per tutti. Christmas, baby.